tutta la comunità dei figli di Israele partì dal deserto di Sin per le loro tappe, secondo la parola del Signore, e si accamparono a Refidim, ma non c'era acqua da bere per il popolo. Il popolo protestò con Mosè e disse: «Dacci dell'acqua perché possiamo bere». Mosè disse loro: «Perché discutete con me? Perché tentate il Signore?» Là il popolo era assetato d'acqua. Il popolo mormorò contro Mosè e disse: «Perché ci hai fatto salire dall'Egitto per far morire me, i miei figli e il mio bestiame di sete?» Mosè gridò al Signore dicendo: «Che cosa farò a questo popolo? Ancora un po' e mi lapiderà». Il Signore disse a Mosè: «Passa davanti al popolo e prendi con te degli anziani di Israele. Prendi nella tua mano il tuo bastone con il quale hai colpito il fiume e va. Ecco, io sto davanti a te, là sulla roccia, sull'Oreb. Colpirai la roccia e ne uscirà acqua. Il popolo verrà». Così fece Mosè agli occhi degli anziani di Israele. Chiamò quel luogo Massa e Meriba per la contesa dei figli di Israele e perché tentarono il Signore dicendo: «Il Signore è in mezzo a noi o no?» Venne Amalek e combatté contro Israele a Refidim. Mosè disse a Giosuè: «Scegli per noi degli uomini ed esci a combattere Amalek. Domani io mi terrò ritto in cima alla collina con in mano il bastone di Dio». Giosuè fece come Mosè gli aveva detto per combattere Amalek. Mosè, Aronne e Cur salirono in cima alla collina. Quando Mosè alzava la sua mano, Israele era più forte, e quando abbassava la sua mano, era più forte Amalek. Ma le mani di Mosè pesavano. Allora presero una pietra e la misero sotto di lui. Vi si sedette sopra, mentre Aronne e Cur sostenevano le sue mani, uno da una parte e l'altro dall'altra. E le sue mani rimasero ferme fino al tramonto del sole. Giosuè finì Amalek e il suo popolo a fil di spada. Il Signore disse a Mosè: «Scrivi questo sul libro come ricordo, e dichiara alle orecchie di Giosuè che io cancellerò il ricordo di Amalek da sotto il sole». Allora Mosè costruì un altare, lo chiamò «Il Signore è il mio segnale» e disse: «Mano al vessillo del Signore, guerra per il Signore contro Amalek, di generazione in generazione».